No, benvenuto a tutti quanti. Siamo arrivati a Bolzano Scomparsa 8, quindi vuol dire che il dottor Frangipane, che è ospite nostro questa sera, ha continuato con un lavoro di ricerca e raccogliendo informazioni che a quanto pare sono numerosissime, sempre interessanti, perché poi le sa mettere insieme in una maniera, direi, oltre che corretta storicamente, anche piacevole, accompagnate da fotografie. L'avete visto anche nei precedenti volumi che sono stati presentati sempre dalla Biblioteca Provinciale, che rimangono e sono un prezioso contributo per la conoscenza della nostra storia, della storia che ci tocca da vicino, una storia di cui facciamo parte tutti. E quindi è sempre piacevole anche presentare il libro, perché i libri che propone il dottor Frangipane, perché hanno un risvolto che riguarda la comunità di Bolzano, in particolare la comunità cittadina, ma anche poi tutto il territorio provinciale. Ecco, è una serata speciale. Il dottor Frangipane è un autore che fa parte dell'associazione Scrittori Altoatesini, è qui presente il presidente, il professor Mastrolia, ma ci sono altri componenti di questa neonata associazione che abbiamo visto già nel mese di ottobre di quest'anno essere molto propositiva, vivace, e che collabora con la Biblioteca Provinciale. Da quando è nata, insomma, cerchiamo di organizzare insieme tante cose proprio per valorizzare il nostro patrimonio culturale, locale, il territorio e quello che possiamo lasciare e trasmettere alla comunità. Io non dico altro, vi annuncio solamente altre due iniziative di questa settimana. Giovedì prossimo, sempre qui, sempre alle ore 18, sarà la volta di un romanzo d'amore, potrei definirlo, di una giovane autrice bolzanina, Mandami un messaggio. Si svolge all'epoca di internet, l'autrice Arianna Vetere. Ci troveremo qui giovedì alle ore 18. Venerdì pomeriggio invece presso la biblioteca provinciale alle ore 16, e qui vi chiedo se avete intenzione cortesemente di telefonarci, abbiamo solo bisogno di un nominativo perché il numero è a numero chiuso visti gli spazi angusti della nostra piccola struttura in via Mendola 5. Ci sarà alle ore 16 Alberto Fostini, che è un esperto di botanica, si occupa di cucina vegetariana, per cui chi ha piacere di conoscere i suoi libri in merito a questo argomento può venire in biblioteca e lasciarci il proprio nominativo anche solo per telefono. Venerdì alle ore 16 in via Mendola. Basta, per questa settimana siamo a posto, poi ci rivediamo lunedì prossimo alle ore 18, che qualcosa succede sempre. Ecco, vi ringrazio, a lei la parola. Grazie. Bene, sono contento di vedervi, siete molto numerosi, siete troppo numerosi. Io penso che una volta prossima faremo così, divideremo gruppi e il secondo e terzo gruppo sentirà la registrazione della prima volta. No, naturalmente sono battute, un po' stupide, ma è così, per entrare un po' nel vivo, diciamo così, in sintonia con voi. E va già detto tutto, voi sapete, siete qua, quindi sapete cosa scrivo, sapete dove scrivo, è inutile che ripeta ulteriormente queste cose. Vi dirò soltanto che anche questa sera propongo articoli già apparsi sul giornale Alto Adige di domenica in domenica, e così vado avanti, io continuo ad andare avanti inesorabilmente. Sto scrivendo adesso i volumi, gli articoli che trasformerò in capitoli del nono volume, e se Dio me la manda buona, anzi come diceva mio padre, a Dio piacendo, inshallah, arriveremo al numero 10, dopodiché credo che chiuderemo definitivamente, anche perché farò dell'altro, sto facendo scuola di danza e cercherò di intrattenervi in altro modo. Bene, ecco che è arrivata anche Ivana Burattin, che è una mia cara e affezionata fan. Non volevo usare il termine fan perché io tutte queste anglofilie non le capisco. Ma perché ci si deve approcciare a qualche cosa e non avvicinare, per esempio, no? Vabbè, lasciamo perdere. Estimatrice. Entriamo. Come? Estimatrice. Esatto. Eccoci qua, allora, con questo nono volume che vi propone in prima pagina, sulla copertina, primo volume dell'ultima serie di tre, intendevo dire. E non brontolate troppo, che già c'è mia moglie defilata là, che a un certo punto comincerà col farmi segnacci, quando dico le cose che non vanno dette, oppure così, quando bisogna far capire che vado troppo per le lunghe. Questo naturalmente lo riconoscete, questo è il Torgelhaus di 100 anni fa e questo personaggio però forse non l'avete presente. E il personaggio è un personaggio molto interessante del quale io parlo, ne ho già parlato, ma torno a parlarne questa volta perché vi voglio ricordare una cosa, che gli articoli che io scrivo da giornalista li ho colti da giornali del periodo tra il 1850 e il 1950, quindi io non scrivo della storia, io riporto della cronaca, della vecchia cronaca, un fatto che del quale si parlò moltissimo sul finire dell'Ottocento fu l'episodio di Meyerling, il suicidio, omicidio dell'erede al trono d'Austria-Ungheria, Rodolfo, che aveva questa giovane amante, questa è Maria Vezzera, che era la giovane amante di Rodolfo, e furono trovati morti una mattina nel castello di Meyerling. Secondo la versione ufficiale si trattò di un omicidio-suicidio, un amore disperato pertanto da parte di Rodolfo, secondo altre versioni invece fu un omicidio di Stato, perché Rodolfo era un tipo un po' sui generis, un po' particolare, intendeva, si stava ribellando a Francesco Giuseppe, suo padre, e intendeva collaborare con gli ungheresi all'indipendenza dell'Ungheria. Ecco, c'è Mara Daroit con noi che vi leggerà alcuni brani e spero, la invito adesso a leggere il primo brano tratto naturalmente dal mio libro, e che riferisce per l'appunto quanto vi ho detto fino a questo momento. Siamo nell'aprile del 1881, Rodolfo d'Asburgo deve sposare, si vuole che si sposi con Stefania del Belgio, la figlia del re del Belgio, Leopoldo II. Ecco cosa appare sul giornale Tiroler Volksblatt, che si stampava a Bolzano nell'aprile del 1881. Prima che Stefania compisse 16 anni, fu destinata a sposare Rodolfo. Tuttavia, bisognava attendere ancora, perché la giovane non si era ancora sviluppata. Finalmente la cosa accadde, e così il 10 maggio 1881 la cerimonia ebbe luogo a Vienna. Rodolfo aveva 23 anni, Stefania 17. Grandi feste, e il Tiroler Volksblatt dedicò ampio spazio alle gioiose cerimonie avvenute in tutto il Tirolo. Numerose pagine sono dedicate all'avvenimento. Una maestosa fiaccolata attraverso vie imbandierate, mentre sul virgolo esplodono i mortaretti e il Duomo si celebra una messa solenne. Il giorno 14 il Tiroler Volksblatt torna sul tema, descrivendo il festoso banchetto di 140 invitati tenuto al Kaiserkrone, presenti clero e civili, nobili e borghesi, commercianti e artigiani. Parla il sindaco. Brindisi per la coppia imperiale e per il Kaiser. Urrà collettivo mentre risuonano le note dell'inno nazionale. Ma il matrimonio non fu felice. Rudolf era aperto, intellettualmente vivace, politicamente liberale, portato alla trasgressione. Simpatizzava con gli indipendentisti ungheresi, frequentava col suo cocchiere le osterie. Era dedito alle donne e all'alcol. Si ammalò di una malattia venerea che trasmise alla consorte. Finì con l'infatuarsi della baronessina diciassettenne Maria de Zera, con la quale si incontrò per l'ultima volta nel suo castello di Mayoling. L'indomani, 30 gennaio 1889, furono trovati morti in un lago di sangue. Omicidio-suicidio, duplice-suicidio, omicidio di Stato. Vienna tentò inizialmente di accreditare le versioni più inverosimili, mentre il cadavere della baronessina veniva allontanato da Mayoling in carrozza, con la baronessina seduta come viva tra due passeggeri che la sostenevano. Un bastone infilato nel retro del vestito la teneva eretta. La verità non è mai stata detta. E questo è Rodolfo. E questa è Stefania del Belgio, sua moglie, che poi si sposò con un conte e fu conosciuta, fu presentata, venne anche a Bolzano, come la moglie del conte, ma tutti si dimenticarono a questo punto che era stata la moglie dell'erede al trono. Si dimenticarono o fingero di dimenticarsi. Era un episodio che andava naturalmente cancellato. E questo è un altro episodio che va cancellato, che doveva essere cancellato all'epoca. Leggete qua la data, il 18 luglio del 1916, il Tiroler, che si stampava a Bolzano, tra l'altro era uno dei quattro giornali che si stampavano a Bolzano, uscì così censurato. La gente si chiese perché. Si trattava di una notizia che era preferibile, che era politicamente negativo far conoscere. Si era in piena guerra, era iniziata da 2 anni la prima guerra mondiale, appare questa notizia e si venne a sapere dopo il motivo di questa censura. Si descriveva, si annunciava e descriveva la morte di Cesare Battisti. Cesare Battisti era stato un deputato al Parlamento di Vienna, socialdemocratico, al Parlamentino di Innsbruck, era un personaggio che aveva naturalmente un forte seguito, godeva di forti simpatie, era inopportuno far sapere che era stato preso prigioniero e impiccato. Questa è la fotografia dell'impiccagione di Cesare Battisti. È una fotografia che ebbe una sua storia, anche questa, perché, come vedete, è estremamente macabra. All'epoca non si usava, fotografare esecuzioni. Questa volta l'esecuzione fu fotografata e, secondo lo scrittore austriaco Karl Krause, che fu candidato varie volte al premio Nobel, questa fotografia valse come una battaglia persa. Sicuramente, vedete che vestito borghese strazzonato che imposero a Cesare Battisti, no? Aveva la sua brava divisa di ufficiale italiano, gli imposero questo vestito trovato su qualche bancarella, fecero venire da Vienna il Boyer, che si chiamava Lang, che vedete qua ridente e compiaciuto, come ridenti e compiaciuti appaiono questi altri personaggi. E l'esecuzione di Battisti fu particolarmente, non fu impiccato, fu praticamente strangolato da Lang, che si trovava dietro di lui, e poi lo fece cadere. Questa fotografia venne scattata e arrivò di contrabbando attraverso la Svizzera in Germania, in Italia, e fu diffusa dagli italiani, dal regime, dal governo italiano da allora, ed è perciò che, come ho detto prima, secondo Krause e secondo altri intellettuali austriaci, questa fotografia fece più male all'Austria di quanto ne avrebbe fatto una sconfitta militare. Questa invece è la fotografia della morte di Fabio Filzi, roveretano, che fu giustiziato la mattina stessa della morte, dell'uccisione di Cesare Battisti, sempre nella fossa del Buon Consiglio, che fu poi da quel momento definita la fossa dei martiri. E questo è un giornale che all'epoca compariva in Tirolo ed era stampato esattamente a Merano, in lingua italiana, La Difesa del Tirolo. Era un giornale ovviamente filo imperiale, pro Asburgo, che esprimeva tutta la sua simpatia nei confronti del Kaiser, e che io ritengo molto interessante. Vedete la guerra contro l'Italia, molto interessante, perché leggendo le sue pagine si ha l'idea di cosa ci pensava dall'altra parte. Noi siamo abituati a pensare e a sapere le cose che sono avvenute in quel periodo, viste, e si direbbe, da sinistra o da destra, no? Viste dal di qua delle risonze del Piave, ma al di là come la pensavano, cosa dicevano. Richiamiamo Mara Daroit, che ci leggerà adesso qualche cosa di quello che scriveva allora La Difesa del Tirolo. Le battaglie di Risonzo furono 12, furono così definite, una dopo l'altra si succedettero come degli attacchi successivi, dei tentativi di conquista del territorio austro-ungarico, e tutte le volte è stata la prima guerra mondiale, una guerra aggressiva praticamente da parte dell'Italia, no? Gli austro-ungarici si difendevano, e si difendevano egregiamente, fortemente, mentre gli italiani non riuscivano ad andare all'attacco più di tanto. Sapete di Cadorna, le stragi di Cadorna, che fu poi allontanato per inettitudine, perché insisteva in una tecnica di guerra che era suicida, mandare la gente all'attacco, delle mitragliatrici avversarie, attraversando fili spinati, stragi incredibili. E attraverso lo scritto che adesso Mara ci leggerà, e questa descrizione dell'austriacante Difesa del Tirolo, voi potete avere un'immagine di quella che era la guerra allora vista dall'altra parte, vista cioè dalla parte della Difesa del Tirolo. Leggiamo. I combattimenti che perdurano notte e giorno senza interruzione. Gli italiani sacrificano migliaia e migliaia di uomini nell'intento di affievolire e stancare la tenacia e resistenza dei nostri difensori. Tutti gli assalti si infransero di nuovo, con perdite paurose per l'assalitore. La cupola sudoccidentale del San Michele si chiama ora il Monte dei Cadaveri per l'enorme massa di morti italiani dinanzi alle trincee degli austro-ungarici. I proiettili italiani colpiscono i cadaveri italiani e li lanciano in tutte le direzioni, spettacolo raccapricciante che oltrepassa ogni sbrigliata fantasia, e il fetore è pure corrispondente. Un ufficiale racconta che dinanzi al fronte del suo reggimento giacciono oltre 2000 cadaveri italiani. L'arciduca Giuseppe stima i cadaveri italiani che si trovano dinanzi al suo fronte in oltre 10.000 uomini. La puzza emanata è incredibile. Il freddo non basta a fare sparire quell'orribile odore, ma le conseguenze di ciò sono che i nostri soldati sono divenuti silenziosi, già che nessuno parla se non vi è costretto, per non aprire la bocca in quella pestilenziale atmosfera. Anche qui sode il gemito dei feriti italiani che non possono essere soccorsi. La nostra sanità tentò spesse volte di soccorrerli, ma dovette tornare indietro, seguito al violento fuoco di cui fu fatta segno dalle truppe italiane. Nell'articolo si fa addirittura cenno a ufficiali inglesi e francesi che, pistole alla mano, seguono gli attacchi italiani per sparare a chi si rifiutava di andare avanti. Questa è la guerra vista e descritta, naturalmente, da parte austro-ungarica. Andiamo avanti. Ah, vi dicevo prima, questi sono cadaveri italiani, li ho trovati in internet, guardate, gente, ragazzi di 20-21 anni, uccisi dal gas, perché a quell'epoca si usava il gas, che poi è stato dichiarato fuori legge, come sapete, e fu purtroppo impiegato però nuovamente dagli italiani nella guerra di Etiopia. Andiamo avanti. Siamo al momento, ad un altro momento incredibile, sanguinoso della prima guerra mondiale, le mine. E la tecnica di allora consisteva nel conquistare le vette, no? Chi conquistava la vetta dominava la valle, tecnica che si è rivelata poi inefficiente, inefficace, perché si è visto con Caporetto che si potevano aggirare le montagne. L'esercito passava, gli aggressori passavano nelle valli e lasciandosi alle spalle le vette occupate dal nemico. Però all'epoca si ritenne di dover occupare queste vette, e per prendere queste vette, naturalmente armatissime, difese in oltranza, cosa si poteva fare? E si escogitò, allora si escogitò la guerra delle mine. Questa è una mina che fecero saltare, la prima mina delle 34 che furono attivate nelle Dolomiti, e fu attivata dagli austro-ungarici nel gruppo del Lagazuoi. Mi ricordo, vorrei ricordarvi anche il nome di questo, la Cengia Martini, questo qua. Praticamente cosa avveniva? Che se il nemico occupava una vetta, gli aggressori, cioè quelli che volevano, si infilavano sotto, scavavano delle gallerie sotto la vetta, ci infilavano tonnellate di tritolo o nitroglicerina, ma normalmente era tritolo, e facevano saltare la vetta con tutti gli uomini che la occupavano, stragi quindi. A Col di Lana, che fu la mina che più, della quale maggiormente si dice, il 17 aprile del 1916, il Col di Lana, per conquistare il Col di Lana nel complesso ci furono 8.000 morti da parte italiana. Sul Col di Lana si trovavano poco più di 110 austriaci che morirono nell'esplosione della mina che gli italiani fecero brillare. Questo che vedete qua è un giornale francese che riporta qui a sinistra l'ingresso della mina scavata dagli italiani sotto il Col di Lana, che si trova subito dopo il Pordoi, vi voglio ricordare. E questo è il tenente Caetani, un nobile, che mi pare che si chiamasse Caetani, sì, Gelasio Caetani, che diresse l'operazione. In quell'occasione furono infilati nella montagna 5,5 tonnellate di esplosivo. Il Col di Lana che vedete oggi è senza la vetta, perché la vetta è stata fatta saltare in aria da questa potente mina italiana. Naturalmente il momento successivo era quello della conquista del Col di Lana o del Col in linea generale. Beh, nel Col di Lana in particolare fu poi conquistato dagli italiani, che subito dopo l'esplosione della mina si portarono sul posto, e dopodiché, dopo Caporetto, il Regio Esercito cosa fece? Si dovette ritirare e lasciò il Col di Lana nuovamente agli austro-ungarici. Quindi anche in questo caso morti inutili. E questo è un personaggio che vive tuttora a Bolzano e che mi sarebbe piaciuto vedere qua. Bruno Bertoldi. Questo è Bruno Bertoldi. Questo è Bruno Bertoldi, abita in via Torino, ha oltre 90 anni, abita un terzo quarto piano, è non dotato di ascensore e fa su e giù le scale con una forza inimmaginabile. Ho fatto fatica a stargli dietro. Perché vi propongo Bruno Bertoldi? Perché è uno dei pochissimi sopravvissuti italiani alla strage di Cefalonia. Siamo nel settembre-ottobre del 1943, c'è stato l'armistizio, anche a Cefalonia, isola greca, ci trovavamo un contingente di italiani lasciati allo sbando, perché le autorità italiane, militari, si erano dissolti. Ecco, chi senza ordini erano rimasti là. E il generale comandante cosa fece? A questo punto, una cosa stranissima, convocò gli ufficiali e chiese loro, cosa facciamo? Lasciò votare, votarono per la resistenza, che fu inutile perché i tedeschi lanciarono paracadutisti, avevano un numero, erano meglio organizzati, meglio attrezzati. Gli italiani furono fatti prigionieri e furono passati per le armi. Oltre 2000 italiani furono uccisi dalla Wehrmacht in questa occasione. Bertoldi è sopravvissuto perché è stato riconosciuto da un sudtirolese che con lui aveva fatto il servizio, la visita militare a Verona, ed era ormai combatteva con la Wehrmacht, questo sudtirolese. A questo punto lo riconobbe, diede un calcio nel sedere e scappa. E Bertoldi si trova, eccolo qua. Questo è Bertoldi e qua siamo in una sfilata nei tardi anni 30-40 in piazza Mazzini, nell'attuale piazza Mazzini. Qua vedete, questo è l'edificio dove si trova la farmacia Ferrari, già Bertella. Questi sono case che non sono state ancora costruite, insomma, il Palazzo Rossi. E questo, ripeto, è Bruno Bertoldi col generale o colonnello comandante questo reparto. Guardate che trabiculi che avevano gli italiani. Questi trabiculi, tra parentesi, io me li ricordo, avevano le gomme piene. Figurate cose dell'epoca di Noè. Bertoldi trovò rifugio presso una famiglia greca e poi fu preso prigioniero più tardi dai tedeschi, non fu passato per le armi perché poi il momento della strage era già terminato, fu trasferito in Polonia dove per la sua qualità di meccanico fu impiegato in riparazioni di automezzi da parte dei tedeschi, poi fu fatto prigioniero dai russi e mi raccontava che la loro prigione, temperature impossibili, e loro vivevano praticamente sottoterra, cioè non erano baracche, non erano edifici, avevano scavato un qualcosa che non aveva mura laterali, solo un tetto, no? Erano come delle tombe, loro vivevano sotto in questa tomba che si affacciava all'esterno grazie a una o più finestre, per il resto dovevano stare là sotto tra i pidocchi, la fame, la sete, e questa è la loro condizione. Quando furono liberati Bertoldi attraversò tutta la Siberia, arrivò nel mare della Cina e da lì furono poi rimpatriati in Italia. Questo uomo, questa persona amabilissima, gentilissima, carinissima, vive tuttora, ripeto, in via Torino. Questo è un altro discorso che vi propongo, sono le negrette che vengono comperate sui fingri dell'Ottocento dai missionari italiani, nel caso specifico da padre Oliviero, che era un genovese, che le comperavano in Africa, sui mercati degli schiavi dell'Egitto, Alessandria oppure il Cairo, le portavano in Europa con l'intenzione di convertirle naturalmente e poi di farne delle suore missionarie da mandare in Africa. Ecco, questo padre Olivieri ne trovò anche, ne acquistò anche un certo numero, oltre 800, non poche, a rate successive, e le portò a rate successive anche a Bolzano, Merano, in Tirolo, a Stams, eccetera. E questa in particolare venne in Italia non attraverso l'operazione di questo padre Olivieri, ma perché lavorava da bambina praticamente nella casa del console italiano di Khartoum, che fuggì da Khartoum portandosela presso. Avete presente un film dal titolo Khartoum, per l'appunto, con Charlton Heston, vecchio film a colori, la sollevazione del Mahdi, esatto, il console italiano se la portò in Italia con la famiglia, e quando tornò dopo la repressione di questa rivoluzione martista in Egitto, la piccola, che poi crebbe e che si chiamava la Bachita, che vuol dire fortunata, volle restare sul posto e restò in Veneto. E poi, tra l'altro, la cosa curiosa è che questa negretta non parlava più la sua lingua, perché ormai l'aveva dimenticato, no? Parlava il dialetto veneto, e soltanto veneto. Una cosa curiosa. Questa invece è una suora, che è Suor Maria Giuseppe Rossello, che collaborava con padre Olivieri, che era ligure anche lei, e anche lei organizzava praticamente questa raccolta di bambine nere da portare, da comprare e da portare in Europa, e fu proclamata santa. Si vede. Questo è un altro capitolo interessante di quello che io racconto, cioè la meccanizzazione dello sci. Vi ricordate? Qualcuno di voi si ricorda gli slittoni, i famosi slittoni? Ecco, Stefano si ricorda. E l'Alpe di Sciusi, eccolo qua, lo slittone dell'Alpe di Sciusi. Quando iniziavano gli impianti di risalita, i primi impianti, no? Al Ciampinoi, sul Moldone, all'Alpe di Sciusi. Ecco, qui siamo in Val Badia, e qui siamo invece sull'Alpe di Sciusi. Questa è la bullaccia qua dietro, no? C'era un motorino a monte che tirava e si saliva con gli sci. Notate che si sia ancora con le punte divergenti, e io mi ricordo che salivo su questi slittoni, facendo attenzione al fatto di essere all'esterno, perché dicevo, se si spacca qualcosa almeno mi butto giù nella neve ed evito maggiori guai. C'era una certa lotta per la posizione esterna. Ma com'è che venivano tirati? C'era un motorino a monte che con il cavo si girava, e questo signore qua, che voi vedete avere un volante in mano, in effetti aveva la possibilità di spostare i pattini anteriori nel caso lo slittone sbandasse da una parte o dall'altra. Era il modo diverso di sciare, no? questa è una foto che vi voglio proporre così, per curiosità, cioè, che peraltro, che ricordate nel libro. Guardate com'era sul finire degli anni 30, corso Giulio Cesare, si chiamava allora così, e com'è oggi. Qui, per esempio, vedete Cristo Re e non è ancora stato eretto il campanile. Qui sulla sinistra, questa casetta, c'è tuttora. Io non riesco a capire che cos'è questo edificio. Non è il palazzo degli uffici finanziari che allora fu costruito come casa Littoria, non lo so, credo che sia però un edificio in demolizione, visto c'era là un grosso edificio di non so quali suore, a meno che non sia quest'altro. Comunque questo era corso, l'odierno Corso Italia, senza un'automobile, senza niente, però col semaforo. Il semaforo c'era. Io ho letto un giornale, la provincia di Bolzano, molto bello, degli anni 38 e 39, ho proposto in un libro precedente quell'articolo, ed è bello perché insegna ai lettori cosa serve il semaforo, che col verde si passa, col giallo si deve aspettare, col rosso fermarsi assolutamente. È una cosa elementare, per noi oggi elementare, no? Eppure allora erano cose nuove che andavano imparate. Questo è Bolzano in una carta geografica del finire degli anni 20. Ecco, vedete che è segnato il monumento alla Vittoria, però se questa è via dei Portici, questa è via Museo e questo è il Ponte Tarvera, a questo punto non c'è Corso Libertà, c'è questa strada che è via Diaz, che è la Merano, strada via la via che porta a Merano, c'è quest'altra strada che è la Mendelstraße, via Mendola, e che porta per l'appunto alla Mendola, non c'è ancora via Druso. Non c'è via Druso, e noterete un'altra cosa, che ecco, questa è la via Mendola, vedete, che va giù di qua e arriva a Castel Firmiano. Il 3 è il treno di Merano che allora passava sulla riva destra dell'Adige, dell'Isarco, mi sto sbagliando, non c'erano naturalmente i ponti che ci sono adesso, né Palermo, né Resia, né Ponte Roma, e sulla Talvera vedete soltanto il Ponte Talvera, costruito nel 1900, e il ponte ferroviario, che adesso è di colore giallo e serve come pista ciclabile, no? Ecco. A monte vedete però il ponte di Sant'Antonio, che l'hanno costruito nel 1902, e quindi quello, almeno quello lo vedete. Poi vi ho segnalato qua la funicolare, la cremaliera del Renon. Questa 5 è via Brennero, perché allora la statale del Brennero era questa, passava per Bolzano e si andava in su, no? Non c'era la tangenziale del virgolo praticamente, vedete qua tra l'altro c'è il virgolo e qua c'è la funivia, la teleferica, la chiamavano teleferica del colle. I due centri di Gries e di Bolzano negli anni 20 erano nettamente separati tra di loro ed erano anzi due comuni diversi, perché Gries divenne comune, fu inglobato nel comune di Bolzano nonostante le proteste dei suoi abitanti solo nel 1925. Ecco un'altra cosa che vi volevo far vedere come curiosità, sono le incise di via Carducci, che sono interessanti perché costruite negli anni 20, anche queste sono costruite negli anni 20, secondo uno stile che non era ancora lo stile piacentiniano, il razionalismo che è tipico di Corso Libertà, è fatto di cubi, no? È uno stile che era detto allora barocchetto romano. Mi piace, alle volte vedo dei tedeschi, dei turisti che vivono là e fotografano, perché sono in effetti una costruzione abbastanza curiosa. E questa è Piazza Vittoria, Piazza Vittorio negli anni 20 con le Incis, che voi conoscete oggi, in stile oggi razionale, razionalista, che erano all'epoca in barocchetto romano, vedete? Queste erano, le Incis erano fatte così. Le Incis di Piazza Vittorio. Questi sono cose. Sì, è uno stile apprezzabile, a me piace personalmente. Sarà un po' ridondante con questi elementi, qua c'è un timpano greco, per esempio, con questi elementi, qua ci sono delle balaustre barocche, eppure piaceva. Questi sono delle camicie nere che stanno avanzando per arrivare al monumento alla vittoria che si trova proprio qui a destra. Vedete che questa camicia, questo comandante ha la fascia azzurra dei Savoia, e questi sono, vedete, questo com'era e questo com'era. Tutti quegli elementi decorativi sono stati raspati via e è stato imposto questo stile semplicissimo, ripeto ancora, razionalista, che ricorda un po' le pitture di De Chirico, se avete presente, no? È un altro ricordo che ho proposto ai lettori dell'Alto Adige prima e dei miei libri dopo, e questo è molto interessante perché ormai non sappiamo più com'era il cosiddetto rione popolare. Eccolo qua, questo è il rione Dux. Il rione Dux, il rione precedente che si trovava per su, dove ci sono via Milano e via Torino, era chiamato rione Littorio. Questo era il leone Dux, concepito su una base estremamente razionale e pratica, perché tutti questi gli abitanti di questa zona, di questo complesso, ecco, erano tutti operai della zona industriale, che quindi si spostavano nella zona industriale per lavorare e poi per rincasare. Passavano il ponte Roma, ancora non c'era il ponte Palermo, e trovavano vicino ad ogni loro casa un orticello dove potevano coltivare, le cose essenziali. Erano tutte casette da 2-4 famiglie. Notate la chiesa di Don Bosco. Eccola qua, senza quelle campanile. Sono le scuole? Quelle più sono le scuole? Queste sono le scuole. Le scuole, le attuali scuole, esatto. E una cosa curiosa è che a tutte queste casette mancava il collegamento telefonico, per cui c'erano delle cabine telefoniche in piazza per telefonare. Oggi tutti hanno il telefonino, anche troppo. Una volta telefonare era un problema, non solo, ma anche per andare in un ufficio. Per andare in un ufficio bisognava andare in città, e quindi erano grandi camminate, perché il tram esisteva tra Bolzano e Grins, tra Bolzano e Murza, San Giacomo, neanche l'Aives, poi l'Aives solo sul finire degli anni 30, ma non c'era alcun collegamento tranviario o d'autobus tra la zona cosiddetta popolare e via. Le vie del centro. Questa è un'altra cosetta che voglio, ve la ricordate? Stefani ce lo ricorda. Guardate che divertente questa architettura fantasiosa, no? Sa un po' da Excelsior Venezia, no? Era di proprietà degli Staffler, che avevano anche il Grifone e il Lauri. Questo bel edificio, ridondante finché volete, no? Però bello nell'insieme, caratteristico quantomeno, è stato abbattuto, ma non dalle bombe, è sopravvissuto alle bombe, è stato abbattuto per una speculazione edilizia, per costruire quel edificio fatto di uffici e abitazioni che modernissimo, che c'è adesso e che non significa proprio niente. sotto il profilo architettonico e artistico. Scusi, dov'è questo edificio che dice adesso che si è istituito questo? È in via Lauri, signora. Lo inizia via Grappoli, all'angolo tra via Grappoli e via della Rera, e poi che continua in via Conciapelli, c'era quell'edificio che era divertente vederlo, no? Ma era anche multicolore, io mi ricordo che aveva le tegole verdi, per esempio, era divertente. E qua c'è altra costruzione, siamo durante la guerra, 1916. Guardate un po' su che ponte provvisorio di tronchi d'albero si muove questo treno. Questo è il treno della Val Gardena. Questa linea ferroviaria fu costruita dai prigionieri russi per alimentare, per collegare il fronte dolomitico col fondovalle. E mi è piaciuta questa immagine perché mi sono detto, ma io sono facilitato il conduttore di questa vaporiera, mi sarei avventurato lungo quel ponte. Questo è il trenino, il famoso trenino della Val Gardena, che passa non mi ricordo, ma deve essere Ortigei, della chiesa Ortigei, questo campanile a cipollone, esatto. E poi, ecco, questo adesso ci avviamo a conclusione, questo è il fascismo, puntava anche alla cultura, oltre che alla cultura fisica, anche alla cultura dell'intelletto. E quindi a Bolzano, tra l'altro, ci furono delle mostre biennali d'arte figurative molto apprezzate, molto belle, rivolte soprattutto ai pittori del Trentino e dell'Alto Adige. E il fascismo cercava con ciò di accattivarsi la simpatia degli artisti sudtirolesi. Ci furono anche mostre di libri, soprattutto direi nel Teatro Verdi che si trovava nel parco della stazione. Qui c'è l'inaugurazione Gioventù Fascista di una di queste mostre. Questo è il segretario federale Mastro Mattei e questo invece il duca di Pistoia, Filiberto di Savoia Genova, che fu preso in quanto Savoia per legittimare l'italianità dell'Alto Adige e paracadutato a Bolzano con la sua moglie Lidia di Arenburg, che era di origine belga, e gli hanno fatto una villona per l'occasione, che è il commissariato del governo. Al posto del commissariato del governo c'è una volta una villa di un tedesco, la famiglia Wendland, bellissima ma un pochettino più piccola, che è stata sequestrata dal governo italiano per risarcimento danni di guerra della prima guerra mondiale. Ecco, lì andò ad abitare il duca di Pistoia con sua moglie, con la sua famiglia, e lì abita attualmente in poche stanze, spero, il commissario del governo. Andiamo avanti con questa immagine, vi dicevo dei libri, no? Questa c'è qua con noi il signore, ecco, il signor Stefani, proprietario attuale. È un'altra opera del regime in un certo senso, perché bisognava promuovere logicamente la cultura italiana in Alto Adige a scapito di quella tedesca, che era pressoché monopolizzata dalla Tesia, la quale Tesia si chiamava all'origine Tirolia, e fu poi quando il termine Tirolo fu proibito escogitarono il nome Atesia, e così si chiama tuttora. Allora, aprirono questa libreria italiana, che è rimasta la libreria italiana per eccellenza di Bolzano. Qua vedete, col buon voler Saita, il ragno che lavora comunque con la buona volontà. E a proposito vorrei farvi sentire un ultimo brano tratto dalla stampa di allora, e in particolare dal giornale La Provincia di Bolzano, e quanto ho scritto io sul tema. Federico Cappelli, 1865-1951, nacque in Romagna, dove aprì la sua tipografia, che divenne casa editrice di successo. Un suo figlio, Licinio, aprì a Bolzano la libreria tuttora funzionante, che fu inaugurata solennemente il 14 ottobre 1939. Scrisse la provincia di Bolzano: una nuova grande libreria, veramente degna della nuova Bolzano, è stata aperta ieri nella zona monumentale. Si deve alla casa editrice Licinio Cappelli di Bologna la concretizzazione dell'iniziativa che Sua Eccellenza il Prefetto aveva caldeggiato anche presso il Ministero della Cultura Popolare. Ora l'iniziativa, che ha avuto l'approvazione del Duce, è stata tradotta in atto con larghezza di vedute, e Bolzano può vantare una tra le più moderne librerie e le meglio dotate. Il giornale ricorda che in precedenza l'editrice Cappelli aveva aperto altre librerie a Milano, Roma e Trieste, ed elenca poi le numerose autorità presenti, tra le quali il senatore Ettore Tolomei. All'ingresso della libreria, precisa ancora l'articolo, prestava servizio un manipolo di balilla moschettieri che ha reso gli onori alle autorità. Il federale, prima di lasciare l'emporio librario, ha inneggiato al successo dell'iniziativa e ha ordinato il saluto al Duce, cui i presenti hanno risposto con un entusiastico: a noi. No, vi confesso che su questo ho chiesto a Ettore l'interpretazione per ragioni generazionali. A noi aveva un significato, perché presupponeva una domanda. Mussolini amava dal balcone fare domande cui la folla doveva rispondere, e rispondeva. Quindi la domanda era: a chi la vittoria? A noi. Questi erano i riti di allora. Insomma, noi ci ridiamo. Bene, ecco, siamo alle ultime immagini. Parlo ancora dei bombardamenti. Questo è un aereo, un bombardiere americano, che reduce dall'aver bombardato la linea ferroviaria a Campo di Trenze, è stato colpito dalla contraerea tedesca ed è finito con il cadere nei pressi di Malé, in Val di Non. Ve lo propongo questo aereo, è proprio questo l'aereo, l'ho trovato in internet, guardate un po' che strano, ve lo propongo per farvi vedere che cos'era allora una fortezza volante, perché si chiamavano fortezze volanti. Erano aerei del tutto autosufficienti, perché non abbisognavano della caccia per la difesa. La caccia non avrebbe avuto tanta benzina, tanto carburante da poterlo servire andata e ritorno fin sul posto, sull'obiettivo da bombardare. Tra parentesi, questi aerei partivano dalle Puglie, dalla Corsica, per raggiungere le linee del Brennero. Erano costruite in maniera tale da potersi autodifendere, avevano come fortezze, di vere fortezze, delle postazioni sul dorso, sulla prua, sulla coda. Su 10 persone addetti al volo c'era il comandante, il marconista, il bombardiere, la restante parte del personale erano mitraglieri che dovevano intervenire nel caso si avvicinassero aerei nemici. Questo, vedete, è un bombardamento, non è avvenuto sull'Altoaglio. Questo l'ho trovato, ma l'ho trovato interessante comunque. Farvi vedere come, qui vedete la torretta, qui vedete la poppa, notate che gli sportelloni aperti, quindi questo aereo deve avere già scaricato le sue bombe oppure le sta scaricando. Tutto attorno è la contraerea, ecco, che spara. E l'obiettivo della contraerea era possibilmente di centrare l'aereo. La cosa non avveniva, ma la rosa di scheggi che ne scaturiva era tale per cui alla fine gli aerei, bene o male, venivano colpiti, venivano toccati. Questo è un aereo che è stato abbattuto dalla FLAC, Flugzeugabwehrkanone, che Redevils Helper, l'aiutante del diavolo, è stato anche questo centrato sopra Campo di Trenze. Perché vi ho detto di Campo di Trenze? Perché a un certo punto si rivelò troppo pericoloso andare a bombardare Bolzano, che dove il ponte ferroviario, tra l'altro, era difficilmente identificabile da parte degli aerei che risalivano alla valle dell'Adige e poi faticavano a scorgere il ponte Loreto perché c'era di mezzo il virgolo, il colle il virgolo. Allora decisero gli americani, di colpire la zona di Campo di Trenze, dove non c'erano ponti lunghi ma ce n'erano tanti e c'era poca contraerea. Questo è il sistema, anche in piazza Matteotti, di aereazione dei rifugi. Rifugi c'è tuttora questo rifugio sotto piazza Matteotti. Nel caso di fumo, gas o roba del genere, si pedalava, sono delle specie di biciclette, e questo si pedalava perché non elettrico, perché poteva saltare la corrente elettrica durante un bombardamento. Allora c'erano degli addetti al pedalare per fare girare questi ventilatori che avrebbero ricambiato l'aria. E questo e l'ho trovato in internet, è una cosa interessantissima. Questo è il colonnello Jean A. Byerly, americano, che comandò i 40 aerei che sganciarono 300 bombe su Bolzano il giorno di Natale del 1943. Io ero all'epoca su al Colle e dopo quel bombardamento, che tra l'altro interessò anche il Colle, mio padre prese la famiglia e ci trasferimmo tutti a Nova Ponente. E mi ricordo di averlo incontrato, perché lui si lanciò col paracadute dopo che il suo aereo era stato colpito sopra Ora. E atterrò al Colle con un altro aviatore del suo aereo. E lui, a parte un occhio nero, stava benissimo, l'altro ci stava male, e mia madre concorse a curarlo, tra l'altro. E me lo ricordo perché i contadini lo presero prigioniero con i loro schioppi da caccia, lo tennero nella stube, e questo signore aveva questo occhio nero, e noi lo guardavamo ragazzini, lo guardavamo stupiti, era un nemico, era elegantissimo. La cosa che mi ha colpito era la sua eleganza. Noi eravamo abituati a vedere soldati italiani o anche tedeschi che erano un po' straccionelli, insomma, specialmente su alla contraerea. La contraerea era a volte pozza, ma che si trova a mezza strada tra il Colle e Nova Ponente. Ecco, fu preso prigioniero, portato a Bolzano, consegnato ai tedeschi, e poi ve l'ho già raccontato questo. Finì prigioniero, fu liberato al termine della guerra, tornò a casa e attraverso i suoi figli, due figli, con i quali sono entrato in contatto grazie a internet, mi ha fatto avere una sua fotografia. Un'ultima fotografia che ho riconosciuto subito. Un'ultima fotografia curiosa gli viene da da un lettore che me l'ha mandata, questo è un suo parente, si chiamava Sontacchi, era un maresciallo pilota di stanza a Bolzano. Questi erano gli aerei che avevamo noi allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Questo è un biplano con un motore Alfa Romeo, delle mezze trappole, se paragonate ai Messerschmitt, ai Spitfire, eccetera, no? E questa, ecco perché ve la voglio far vedere questa foto. Questa è la Elisarco, questo è la Talvera col ponte Druso appena costruito. Questa sarebbe dovuta diventare, sarà via Druso, ma qui ancora i lavori sono in corso. Questo è il ponte ferroviario, attualmente il ponte giallo. Vedete il campo Druso, vedete una delle piscine, la maggiore del Lido, e qua dove tutto adesso è costruito, e qua c'è la zona industriale. E questa è la linea ferroviaria del Brennero. Qua ci sono fabbriche dappertutto, no? Poi c'è Ponte Roma, poi c'è Ponte Palermo, poi c'è Ponte Resia. Qui non c'era niente, c'erano vigneti, non c'era vigneti. Questa era la Bolzano di allora. Ecco, abbiamo praticamente concluso. Io vi voglio soltanto ricordare una cosa, che se volete acquistare delle copie di questo libro, date Cappelli che ne ha a disposizione. E inoltre potete attingere, ho messo là un pacchetto di mie vignette, perché io disegnavo anche vignette originali, se volete ve ne prendete in omaggio. È un regalo che vi faccio per ringraziarvi della vostra presenza. Grazie. Bello. Sì, grazie, permesso. Grazie Valeria, che dovevo rimanere per la